Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. La storia del bambino nato su un aereo precipitato pochi minuti dopo ha destato commozione in tutto il mondo. Ricordo che sulla via del ritorno l'autista, liberato dal suo carico esplosivo, perdeva il controllo del mezzo e moriva al fondo di un burrone. Si chiama falso finale e noi scrittori lo usiamo quando il lieto fine ci sembra troppo stucchevole. Il falso finale è una soluzione che consente al lettore di cullarsi nell'illusione che il peggio sia passato e che poi gli giunge addosso come un colpo in pieno petto. Una pura crudeltà, tanto è una finzione, pensiamo noi. Ma poi, come sempre accade, la realtà riesce ad essere più subdola, più crudele, più terribile della finzione. Marie, la chiameremo così, abita a Lento, nel nord della Corsica. Ad alcuni chilometri ci sono spiagge meravigliose. C'è l'immagine stessa della gioia e della vacanza. E anche Marie potrebbe essere l'immagine della gioia. Ha 20 anni, un marito, e aspetta il suo primo figlio. La loro casa è già satura di quegli oggetti che indicano l'imminenza dell'arrivo. La culla, il passeggino, la tappezzeria con i personaggi Disney, il lettino con le sponde e il corredino. Leggero che il bambino deve nascere a primavera inoltrata. Ma il bambino non vuole saperne di attendere il sole caldo. Il 25 aprile, nell'umidità di un sabato pomeriggio, pieno di pioggia e di nebbia, inizia a reclamare il suo diritto all'aria, alla libertà. I genitori si affannano, telefonano alla guardia medica e il medico, dall'altra parte del filo, consiglia loro di recarsi immediatamente a Bastia. Calvi sarebbe molto più vicina, ma non ha un vero ospedale, solo una struttura medica di base. E questo sul falso finale peserà in modo drammatico. Così il padre tira fuori l'automobile dal garage, abbassa un poco lo schienale del passeggero, in modo che Marie possa stare più comoda, e partono per 85 chilometri di curve, di tornanti e di nebbia. Quando la mano di lui non è impegnata a girare il volante o a scalare le marce, stringe quella di lei, sempre più sudata, sempre più tremante. A Ponteleccia la situazione si fa insostenibile. Incrociano un'auto della gendarmeria che li scorta verso un ambulatorio. Lì, con i sanitari, fanno il punto. Per arrivare a Bastia ci vuole ancora un'ora. Troppo. In elicottero bastano 25 minuti. Da Bastia parte un Dragon 2B. Lo pilota un uomo di 42 anni. E al suo fianco ce n'è uno di 53. Due piloti chevronnet, scafati, esperti. Così come è esperta la dottoressa che li accompagna, 43 anni. Dov'è il peggio in questa storia? Apparentemente è lì, nell'attesa che nel cielo grigio di Ponteleccia si sente il rombo dell'elicottero, in quelle contrazioni che non danno tregua. E, come in tutte le belle storie, il peggio passa. L'elicottero atterra sul piazzale. Marie riceve un ultimo bacio dal marito, un'ultima carezza e un saluto. Ci vediamo all'ospedale, mon amour. È fatta, sono in volo e al suo fianco c'è un medico. Ma questa non è una bella storia, è una storia eccezionale. Il ritmo delle contrazioni accelera e su quel trabiccolo giallo e rosso aggrappato al cielo nasce un bambino. È sano, il peggio è davvero passato. E qui il cinismo della realtà trasforma il lieto fine in un falso finale. L'automobile partita da Lento, ancora con il suo schienale abbassato, giunge a Bastia. Il padre parcheggia dove può, corre a perdifiato verso l'accettazione, chiede dove sia la donna incinta giunta con l'elicottero. La risposta è agghiacciante. L'elicottero non è tornato. È sparito dagli schermi radar alle 19:35. Il padre non sa di essere diventato padre. Glielo diranno il giorno dopo, quando i soccorritori raggiungeranno i rottami dell'elicottero che si è schiantato su una parete rocciosa. I cadaveri sono 5, 4 adulti e un neonato. Le ragioni dell'incidente sono ancora ignote. Le condizioni erano difficili, ma non terribili. I piloti avevano fatto 1000 volte quell'itinerario. Non è stato lanciato nessun segnale di SOS, né è stata annunciata la nascita del bambino. Che cosa è successo in quell'abitacolo apparentemente miracoloso? E a noi, che cosa resta da dire? che su quel bambino gravava un destino avverso e contro il destino. Contro il destino e i suoi falsi finali. Ci sono gli ospedali, che funzionano se sono vicini alla gente e non a 85 chilometri. Contro il destino ci sono i fondi per la sanità, che se risparmiati in malo modo uccidono anziché salvare. Contro il destino si può solo pensare che il destino non esiste, forse. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Alessandro Perissinotto, Il bambino che visse un minuto, dalla Stampa del 27 aprile. Scoperto a Milano l'ennesimo caso di maestre fantasma. Arrivate dal sud, hanno chiesto di essere trasferite al loro paese in quanto invalide, ma una volta tornate a casa, tutte le loro invalidità sono miracolosamente sparite. Patologie riscontrate dalle ASL di residenza e che scompaiono nei successivi controlli, ma che, per legge, consentono il trasferimento immediato a casa, spesso senza aver fatto nemmeno un giorno di lezione nella sede per cui si è vinto il concorso. Per vedere chiaro sulla fabbrica dei certificati truccati, il provveditorato milanese ha inviato un dossier alle procure di Milano e di Reggio Calabria. Nelle denunce si ricostruiscono i casi di 27 maestre invalide e guarite per miracolo, ma intanto trasferite. Le insegnanti sono tutte originarie della provincia di Reggio Calabria, maestre che dal 2006 ad oggi hanno chiesto e ottenuto di lasciare Milano perché affette da invalidità fantasma. Casi gravi di diabete mellito, almeno 10, che di colpo si trasformano in nessuna forma di handicap. Dolori alla schiena cronici e permanentemente invalidanti, che a ogni prova medica successiva alla prima scompaiono. Ma è solo la punta dell'iceberg, assicurano all'ufficio scolastico. Il malcostume delle false invalidità per ottenere trasferimenti ha dimensioni preoccupanti. A consentire questa truffa di massa, come la definisce un funzionario del provveditorato, sono alcune falle nella legge 104, quella che disciplina l'handicap, e nel contratto sulla mobilità degli insegnanti. Per ottenere un trasferimento è sufficiente presentare un certificato di invalidità provvisorio, fatto da un medico dell'ASL di residenza. Alla scuola che il docente lascia, per tutela della privacy, non viene indicata né la patologia né il grado di invalidità, che si presume quindi essere grave. E la maestra può fare le valigie. Entro 90 giorni a trasferimento già avvenuto, la stessa ASL è tenuta a fare un secondo certificato di conferma, in cui invece si dichiara la percentuale di invalidità. Il verdetto, nei casi arrivati alle procure, è sempre lo stesso: non handicap, e a quel punto il trasferimento viene annullato. Ma qui sorge il problema. Fra la prima e la seconda visita, per l'inefficienza delle aziende sanitarie, passano anche 3 anni. E intanto la maestra insegna al sud o non insegna proprio, lasciando scoperta la cattedra che le era stata assegnata per concorso. Un baco che nella sola Lombardia lascia ogni anno centinaia di cattedre vuote da coprire con supplenze costose. Situazioni analoghe a quella milanese si trovano anche a Firenze, Venezia e Torino. Le province di provenienza delle maestre sono sempre le stesse: Reggio Calabria e Agrigento, ma ci sono segnalazioni di casi dal Casertano. Rivolgendoci alla procura abbiamo voluto compiere un atto di chiarezza, taglia corto il provveditore di Milano, Antonio Lupacchino, e di fronte all'evidenza documentale neppure i sindacati della scuola coprono i colleghi. Pippo Frisone, responsabile vertenze della FLC-CGIL a Milano, dice: la responsabilità, specie quella penale, è personale e non bisogna generalizzare. Certo, fa specie la concentrazione di documentazione provvisoria compiacente, rilasciata in attesa di quella collegiale definitiva. Quanto al fatto che i casi si concentrino al sud, Frisone attacca. Se in mezza Italia i tempi di attesa della certificazione ASL vanno oltre i 90 giorni previsti, si lascia il campo libero anche agli abusi. CGIL chiede al governo che siano rese più rigide le norme contrattuali e chiusi tutti i varchi che favoriscono gli abusi e il malaffare. Anche perché oggi si è trasferiti al sud solo se beneficiari della legge 104. Noi siamo per tutelare i diritti veri di chi ha veramente riconosciuto il diritto per legge e per contratto. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Franco Vanni, Lo scandalo delle maestre fantasma. In 3 anni, mai un giorno in cattedra. Dal Corriere della Sera del 24 aprile. Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Alle porte di Milano c'è un carcere dove i detenuti coltivano le piante e sognano di tornare a lavorare da uomini liberi. Liberi di non credere che una realtà come quella di un penitenziario possa diventare un'oasi ricca di 80.000 piante, con i detenuti che fanno i giardinieri senza sorveglianza. Eppure è ciò che succede nella Cascina Bollate, straordinario vivaio di 10.000 metri quadri all'interno del carcere di Milano Bollate, specializzato nella produzione di piante erbacee perenni insolite, tanto per capirci non i banali gerani o gelsomini, tra cui una splendida collezione di rose antiche Peyron. La Cascina è una delle ultime cooperative sociali aperte nella casa di reclusione attenuata di Bollate, la galera più all'avanguardia d'Italia, dove i detenuti arrivano volontariamente da altri istituti perché godono di molta più libertà. Qui si aderisce ai programmi di recupero basati sul lavoro, nel vero senso della parola, non i soliti lavoretti a titolo semigratuito, su cui investire per il futuro. L'operazione è nata grazie alla testardaggine di una signora dal cognome eccellente e anche un po' ingombrante, Susanna Magistretti, figlia di Vico, il famoso architetto e designer. Innamoratasi perdutamente delle piante, ha mollato il suo mestiere di copywriter decidendo di cambiare vita e professione, finendo in Francia e Inghilterra per specializzarsi nel giardinaggio di inserimento. Disciplina da noi poco nota che vuole migliorare la qualità della vita urbana grazie alla realizzazione di oasi verdi nelle aree disagiate. Poi l'impatto con le carceri italiane, dove di norma tutto è brutto e squallido, a cominciare dalle restrizioni personali, per finire con la mancanza di quel verde che per Susanna, al contrario, è proprio uno spazio di libertà. E così nel 2007 è nata l'idea di portare le piante in carcere, dando fra l'altro ai detenuti la chance di imparare un mestiere non banale come quello del giardiniere. L'impresa ha avuto successo anche grazie all'illuminata intercessione della direttrice del carcere di Bollate, Lucia Castellano, la prima che è riuscita a umanizzare la detenzione, riuscendo ad applicare la legge del 1975. Ma la libertà vera, come ricorda Magistretti, si conquista solo con il lavoro vero. Cascina Bollate, come le altre cooperative del carcere, non fa del semplice volontariato, ma è una struttura che punta al recupero sociale, con la necessità imprescindibile di stare nel mercato. Tanto per chiarire, la struttura non gode di sovvenzioni e l'attenzione al bilancio è vitale. Nel 2009 l'obiettivo è arrivare a 100.000 euro, così si potranno assumere altri due giardinieri detenuti. Al momento Cascina Bollate si basa sul lavoro, oltre che della stessa Magistretti, presidente della cooperativa, di quello del suo vice, Massimo Jacopetti, e di un pugno di volontari esterni, di cinque carcerati che hanno scelto di coltivare il pollice verde in maniera professionale. Ma questa storia non è una favola. E non è facile convincere persone che prima vivevano fuori della legge e con mezzi enormi a lavorare onestamente per poco più di 500 euro al mese. È lo stipendio di inserimento previsto dal primo contratto, poi aumenta. Eppure, sia pure con fatica, il miracolo è arrivato. Un paio di soci detenuti hanno già deciso che una volta scontata la pena, torneranno a Bollate da persone libere, anzi, da giardinieri professionisti. Non male, pensando a tutti i problemi che incontrano gli ex reclusi quando escono. Infine, nell'ambito del concetto di fortezza trasparente, cioè il progetto che cerca di mettere in contatto il carcere con la società civile, i cittadini possono venire tre volte alla settimana a comprare direttamente a Bollate i prodotti della Cascina. E intanto è appena partita una collaborazione con Cargo High Tech e, da poco, anche un'altra con il mondo del design, Orto in Piedi, un'installazione verde made in Bollate appena realizzata per il fuorisalone del Salone del Mobile. Entrata libera. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Michele Weiss, Dietro le sbarre c'è un giardino, dal numero 582, maggio 2009, del mensile Specchio Più. Un sito web ha recentemente calcolato che in un anno esistono ben 190 giornate mondiali. Dalla giornata mondiale della pace a quella delle nonne, dalla giornata dell'ambiente a quella dell'uncinetto, ogni 2 giorni c'è qualcosa che viene commemorato. E c'è anche chi propone la giornata mondiale contro le giornate mondiali. Stare dietro a tutte le giornate mondiali è impresa improba, perché sono 190 nel corso dell'anno, talvolta sovrapposte. E non tutte irrinunciabili, va detto subito, pur se c'è chi ha ritenuto opportuno creare un sito per censirle e descriverle. Vincent Tondeau, un pubblicitario francese, racconta che l'idea gli è venuta ascoltando i notiziari radio. «Mi sono accorto che ogni giorno veniva annunciata questa o quella giornata mondiale», dice, «e ho voluto capire qual è il meccanismo per cui una data diventa occasione per celebrare o ricordare qualcosa». Ha scoperto che neanche l'ONU, il più attivo ente promotore con 90 date nel corso dell'anno, ha stilato una direttiva ufficiale in proposito. Le date promosse e gestite dalle Nazioni Unite devono essere votate dall'Assemblea Generale, ma tutte le agenzie intergovernamentali possono a loro volta proclamare le loro giornate mondiali e chiedere solo in seguito il sostegno dell'ONU. Nulla impedisce poi a un privato cittadino di dichiarare l'8 marzo giornata internazionale del biliardino o il 16 giugno quella del gioco della pallacorda, salvo voler votare la propria causa al fallimento, perché quelle date sono già occupate dalla giornata della donna e da quella dei bambini africani. «Fare l'elenco mi ha impegnato tempo ed energie», spiega Tondeau, «e il lavoro è stato complicato dalla necessità di verificare se quelle che si proclamavano giornate mondiali non diventavano poi il raduno in salotto di pochi entusiasti». Tondeau ha cassato ed escluso giornate su giornate, badando a non fare pubblicità a gruppi ascrivibili a sette o che diffondono idee lesive della dignità umana. E dopo tutto questo lavoro si è ritrovato comunque con un elenco ben nutrito e alcuni mesi zeppi di ricorrenze. Tanto che l'ONU sconsiglia di proclamare nuove giornate mondiali in ottobre, già troppo intenso, e suggerisce luglio, per ora ancora abbastanza libero. Dopo l'ONU e le sue agenzie, sono le chiese le più attive nel promuovere le giornate mondiali, poi le ONG, le associazioni, i sindacati professionali e infine i semplici cittadini, come accade per la giornata mondiale del blog, il 31 agosto, oppure quella della risata, il 3 maggio. Ci sono giornate proclamate in una data significativa, come accade per quella della memoria, il 27 gennaio, giorno della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, e giornate che, seppure assai sentite, come quella della pace, hanno ben 2 date, il 21 settembre e il 1 gennaio. Sì, perché proprio questa giornata è emblematica della confusione che regna nel campo. Il Vaticano organizza quella voluta da Giovanni Paolo II nel 1979, mentre l'ONU sostiene quella proclamata nel 1981. La notorietà dei promotori e la loro capacità di attirare l'attenzione dei media sono decisivi nella riuscita di una giornata mondiale, così come il tema che tratta. Ciò non impedisce alla giornata mondiale del lavoro a maglia di aver portato il 14 giugno nelle piazze di tutto il mondo appassionati del genere e a quella dell'orgasmo globale il 21 dicembre, seppure esclusa dall'elenco di Tondeau, di diventare argomento di discussioni e pagine di giornale. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Cristina Annadotti «Dall'ambiente all'uncinetto, la grande inflazione delle giornate mondiali» da Repubblica del 28 aprile. In un procedimento penale, la mancanza di prove certe può essere causa del rilascio di un presunto criminale per decorrenza di termini. Ma può essere anche la molla che spinge al suicidio il carcerato che non riesce a dimostrare la propria innocenza. Renato Amorese, Sergio Moroni, Sergio Castellari, Antonio Vittoria, Gabriele Cagliari, Raul Gardini, Vittorio Damiano, Alessandro Bassi, Camillo Valentini, Francesco Mercuriali, Angelina Giornado, Lucio Addeo, Adamo Bove, Marco Agostini, Ermanno Rossi, Giuseppe Romano, Antonio Marchesani, Niki Aprilegatti, Massimo Mattarelli, Giorgio Nunez, Salvatore Francese, Massimo Mastrolorenzi, Carlo Lampronti. Un elenco di persone decedute non per cause naturali. 3 i denominatori comuni. Il primo: l'essere state persone sottoposte ad indagini processuali. Il secondo, l'avere rinunziato a vivere. Il terzo, l'essere stati oggetti di un'aggressione mediatica. Vittime note. Oscuri sono i nomi delle vittime ignote, di coloro che si sono tolti la vita a seguito di un processo penale, i cui nomi non hanno trovato spazio sulle colonne della carta stampata. vittime della macchina giudiziaria, il cui malfunzionamento costringe i più deboli a togliersi la vita. I primi atti del processo penale, avviso di garanzia, perquisizioni, sequestri e carcere, determinano il contatto con una realtà oscura, impossibile da comprendere e governata dall'incertezza. Un dato certo è costituito dal fatto che si è obbligati a dimostrare la propria innocenza. La presunzione di non colpevolezza, principio consacrato nella Carta Costituzionale, l'onere della prova a carico dell'accusa, enunciati teorici che non hanno attecchito nella quotidianità giudiziaria. La conoscenza dell'indagine determina un mutamento genetico. L'individuo diventa un presunto colpevole. Mutamento genetico che con l'irrompere dei mass media diventa irreversibile. La notizia di un avviso di garanzia o di un arresto provocano nell'opinione pubblica la certezza della colpevolezza. Certezza che solitamente non riesce a essere scalfita neppure con una solenne sentenza di assoluzione. L'altro dato certo che contraddistingue la realtà giudiziaria è che non vi sono dati certi. Incerti sono i tempi. Dell'indagine è possibile conoscere il momento iniziale, talvolta conosciuto attraverso la consultazione degli organi di stampa. Dell'indagine però non è possibile conoscere il momento finale. Colpevole o innocente, si è innanzitutto condannati a subire un processo dai tempi incerti. Un processo che distrugge la vita dell'innocente e destabilizza la vita del colpevole, che non ha modo di conoscere se e quando sarà punito. Incerta è la ricostruzione del fatto, la quale spesso è effettuata con metodi probatori che non garantiscono alcuna certezza. Il processo penale è l'unico procedimento scientifico nel quale da una prova incerta si arriva a conclusioni certe. Incerta è l'applicazione della regola di giudizio. L'interpretazione della legge nel tempo cambia. Un fatto ritenuto non essere penalmente rilevante lo può diventare a causa di diverse interpretazioni giurisprudenziali. Un individuo può essere condannato per una condotta che al momento in cui è stata realizzata non era ritenuta dalla giurisprudenza illecita. L'interpretazione differisce da giudice a giudice. Accade che in uno stesso tribunale uno stesso fatto determini pronunce di condanna e di assoluzione. La realtà giudiziaria ci consegna valutazioni dello stesso fatto diverse ad opera di giudici diversi. Incertezza determinata dalla non applicazione rigorosa del principio del favor rei, il quale dovrebbe determinare pronunce assolutorie sia in presenza di una non certezza probatoria sia nel caso di una non certezza normativa. Il temere di non riuscire a dimostrare la propria innocenza, per il riconoscimento della quale si richiede una prova certa, e soprattutto la certezza di interminabili tempi processuali, fanno apparire il processo come un'intollerabile spada di Damocle, dalla quale il più debole fugge, rinunciando talvolta addirittura a vivere. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Fulvio Conti, Quei morti suicidi per un processo penale, dal Riformista del 29 aprile.